Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 9 minuti e 22 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una giornata che sui mercati è stata di nuove tensioni e soprattutto di grande volatilità, con gli indici che hanno aperto in calo e il FTSE MIB dell'1,4%, più o meno nel primo pomeriggio hanno virato al rialzo, addirittura 1,5% di guadagno su Milano. Adesso sempre il FTSE MIB cede 0,5%, mentre vanno in ordine sparso le altre piazze finanziarie europee: Parigi che guadagna lo 0,23%, Francoforte che cede lo 0,32%, mentre dall'altra parte dell'oceano il Dow Jones guadagna lo 0,20%, il Nasdaq lo 0,23%. Tutto questo dopo la nuova batosta che vi abbiamo raccontato ieri, soprattutto dal lato delle banche. Naturalmente tutto legato alle vicende della Grecia e alle elezioni in arrivo per il 17 giugno, alle voci che si infittiscono sulla possibilità di un'uscita della Grecia dall'euro e con tutto quel che ne consegue, che in realtà non è ancora chiarissimo. Anche di questo naturalmente parleremo più avanti, cercheremo di capire a cosa stanno guardando i mercati, che cosa ci si aspetta, se si stanno già facendo dei conti e se si sta già scontando la possibilità di un'uscita della Grecia dall'euro ed eventuale effetto contagio. Apriremo la puntata di Focus Economia invece tra poco con un'intervista all'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, con il quale naturalmente toccheremo anche questi temi, oltre che i temi italiani, e poi parleremo di mercato dell'auto, senza far mancare naturalmente, questa è una seconda parte del programma, le voci del Presidente del Consiglio Mario Monti e dei tecnici del Fondo Monetario Internazionale. Mario Monti nella veste però di Ministro dell'Economia nella fattispecie. Oggi c'è stata la conferenza stampa al termine della missione dell'FMI, dalla quale sono emersi alcuni elementi interessanti anche delle dichiarazioni sul tema tasse ed evasione fiscale da parte del fondo. Ne parleremo più avanti, prima di tutto le notizie in breve. Iniziamo dall'oro. Oro in calo a 1533,35 dollari l'once in apertura, un calo dello 0,7%, e apertura in calo anche per il petrolio a New York a 92,58 dollari. Le quotazioni hanno aperto in perdita dell'1,5%. Buone notizie dall'America per la produzione industriale: in aprile cresciuta dell'1,1%, al di sopra delle attese degli analisti. E sempre dagli Stati Uniti arriva la notizia in merito alla vicenda di JP Morgan. Come sapete, la banca ha perso 2 miliardi di dollari in operazioni di trading piuttosto complesse e piuttosto spericolate. Ebbene, gli azionisti di JP Morgan hanno avviato un'azione legale nei confronti dell'amministratore delegato Jamie Dimon. Altra vicenda interessante dagli Stati Uniti e che probabilmente potrebbe essere gravida di conseguenze, visto che ci si avvia venerdì la quotazione in borsa di Facebook. Ebbene, gli investimenti pubblicitari in Facebook non generano risultati soddisfacenti in termini di impatto sui consumatori, e per questo motivo General Motors ha deciso di sospendere le inserzioni sul social network. E chissà se dalle parti di Facebook si teme un effetto a catena. A proposito di Grecia, ci sono le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, o meglio quel che filtra dalla BCE. La BCE vuole fortemente che la Grecia resti nell'euro, anche se non spetta a Francoforte decidere, dice Mario Draghi ad un convegno a Francoforte. Si apprende anche che la Banca Centrale Europea ha ridotto drasticamente gli aiuti finanziari alle banche greche negli ultimi mesi. L'Eurotower ha più che dimezzato l'iniezione di liquidità nelle banche elleniche dai 73 miliardi di gennaio. Solo ieri intanto c'è questa notizia sulla quale c'è stato un piccolo giallo, che è stata diffusa la notizia per la quale i correntisti greci avrebbero ritirato 700 milioni di euro dagli sportelli solamente nella giornata di lunedì. In realtà poi si è appreso che questi 700 milioni sono stati ritirati solamente dal momento del voto, quindi 10 giorni fa. Fanno comunque 70 milioni al giorno, però non è un vero e proprio bank run, come si dice. Tra l'altro oggi c'erano in asta i Bund tedeschi a 10 anni, rendimento al minimo storico un'altra volta all'1,47%. Nel frattempo vi aggiorniamo anche sullo spread italiano a 435 punti rispetto appunto ai Bund tedeschi, il rendimento dei decennali italiani al 5,82%. Quello spagnolo ha toccato i 500 punti di spread. A testimonianza della tensione, degli sconosciuti hanno attaccato la casa vicino a Berlino di Horst Reichenbach, capo della missione europea in Grecia. Hanno dato fuoco all'auto della moglie e fatto delle scritte sulla casa. Il gesto è stato rivendicato da un gruppo che si è fatto chiamare Amici di Lukanikos. Lukanikos, lo ricordiamo, è il cane ritratto in una foto, lo ricorderete, durante le proteste in Grecia davanti ad uno schieramento di poliziotti, è diventato tra i simboli della protesta. Si diceva dello spread spagnolo a 500, ebbene il premier Mariano Rajoy dice: al momento c'è un rischio concreto di essere tagliati fuori dai mercati oppure dover pagare tassi astronomici. Si diceva invece del Fondo Monetario Internazionale e della conclusione della visita in Italia. L'Italia è un buon punto, notevoli progressi negli ultimi 6 mesi, ora deve approvare subito la riforma del lavoro. Però le prospettive per l'economia italiana sono a ribasso, dice Reza Mogadam, direttore del Fondo Monetario per l'Europa. Le prossime settimane, dice il Presidente del Consiglio Mario Monti, saranno decisive per l'Italia e l'Unione Europea. E adesso veniamo al primo tema di giornata, primo tema che in realtà è un'intervista con l'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, e andiamo. Allora, tra poco alle 17.30, e quindi più di tanto tempo non gli potremo strappare, inizia l'incontro dibattito Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione, organizzato da Aspen Institute Italia, Aspen Institute del quale Tremonti è presidente. Tra i partecipanti ci sono Vittorio Grilli, il vice ministro dell'economia, Giuliano Amato, ex presidente del Consiglio, Tiziano Treu, ex ministro del lavoro. Si intende riprendere un volume scritto nel 93 da Sabino Cassese, Francesco Galgano e lo stesso ex ministro Tremonti per l'edizione Il Mulino, che aveva proprio questo titolo: Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazione. Dunque, dopo quest'ampia presentazione, buonasera all'ex ministro Tremonti. Ah, buonasera a voi. Allora, io inizierei da questi temi che abbiamo appena toccato. Insomma, la cronaca necessariamente ce l'impone. Abbiamo una Grecia che molte istituzioni finanziarie danno già sostanzialmente fuori dall'euro, anche se i mercati evidentemente questo ancora non lo scontano, e settimane che il Presidente del Consiglio Monti e anche suo successore, tra l'altro, ha definito decisive, no, per l'Unione Europea. Noi l'abbiamo sentita parlare nei giorni scorsi in merito anche a come poteva evolvere la situazione sulla base delle elezioni francesi e delle elezioni greche. Io le chiederei di darci un aiuto e darci una sua visione su qual è il momento attuale e qual è lo stato attuale. Ma senta, la mia impressione non recente, risalente a un po' di tempo fa, è che effettivamente la crisi ha adesso il suo epicentro in Europa. Quando dicevo l'Italia non è la causa della crisi, la crisi che abbiamo qua viene dall'Europa nel suo insieme, beh, credo che le dichiarazioni fatte da ultimo e la realtà, l'evidenza, dimostrano l'epicentro della crisi in Europa. E da dal lato dell'Europa è una crisi doppia, è crisi finanziaria, bancaria e anche crisi sovrana, e cioè dire crisi del meccanismo della sovranità o non ancora sovranità federale europea. Noi sommiamo due crisi, la crisi delle banche e la crisi dell'Unione. Come tutti, l'Unione si basa su un trattato internazionale, come tutti i trattati è simile a un matrimonio, i matrimoni si fanno nella buona e nella cattiva sorte. Il problema che abbiamo è che i trattati di Unione sono scritti sulla ipotesi della buona sorte, la cattiva sorte, la crisi sta in alcuni paragrafi marginali del trattato, il trattato è tutto scritto sull'ipotesi che il bene sia la regola, il male è l'eccezione neanche poi tanto prevista, c'è scritto crisi per la bilancia dei pagamenti in un singolo Stato, crisi in un singolo Stato causata da calamità naturali. Una crisi come questa non è prevista dal trattato. Non solo siamo in tanti, ma anche il trattato va, come dire, o rifatto, ricostruito, interpretato all'altezza di una crisi che ha una intensità profonda, ripeto, a differenza di quella americana, non solo bancaria e finanziaria, ma lì hanno uno Stato federale sovrano e anche proprio crisi del meccanismo costituzionale europeo. Allora, la sua posizione è chiara e anche evidente, mi sembra, da quel che ha detto, senza che andiamo ad aggiungerlo, che la soluzione deve essere necessariamente appunto una soluzione politica, insomma ci deve essere dietro una politica europea più forte. Io andrei brutale su una domanda. Secondo lei, perché c'è anche una linea di pensiero di questo tipo, la Grecia deve uscire dall'euro e secondo lei uscirà dall'euro alle condizioni attuali? Voglio finire un po' il ragionamento. Fino a maggio del 2010, pur in una lacuna, in una mancanza del trattato, i governi hanno costruito un'architettura comune e da quel consiglio di maggio, da quel consiglio europeo, che si costruisce una comune politica di bilancio ed è l'agenda europea, la devoluzione di maggiori poteri verso l'alto a una sede comune, disciplina di bilancio, ma a lato il fondo europeo che nella mia prospettiva, nella mia speranza, poteva, doveva essere la base anche per gli eurobond. Il dramma inizia dopo, quando in novembre Sarkozy e Merkel a Deauville dicono gli stati possono fallire, lo dicono in inglese, private sector involvement, cioè dire annunciano un evento catastrofico come il fallimento di uno Stato. Gli Stati possono anche fallire, ma non è saggio, non è ragionevole annunciarlo prima. E da quella dichiarazione, da Deauville, da quella sciagurata passeggiata, che inizia e precipita, anzi, la crisi della Grecia e poi dell'Irlanda. Io credo che il caso della Grecia sia realmente un caso tragico, drammatico. Ho sempre detto ai miei colleghi e scritto che la Grecia non è solo un caso economico, è anche pericoloso un caso politico. Quello è un posto del mondo dove si produce più storia di quella che si consuma e la si esporta. E quindi la Grecia come causa di problemi politici, sociali, la storia del Novecento ce lo indica. Poi è stato un caso di malagestio drammatico. La Grecia ha un PIL che è come quello della provincia di Verona, è una piccola frazione del PIL europeo, eppure con la logica di intervenire, di non aiutare, di educare, abbiamo messo in Grecia istituzioni varie, cifre che sono 400, forse anche più miliardi di euro. Quindi c'è una singolare condizione. Per non aiutare in realtà abbiamo dato 400 e passa miliardi di euro con una tecnica di intervento che ha agito in modo molto negativo sull'economia, sulla società, ha fatto crescere e non scendere il debito e il deficit. Che cosa è adesso la Grecia? Mi scusi, però ha lavorato anche lei a quelle soluzioni o mi sbaglio? Io mi riconosco nelle soluzioni prese fino al maggio del 2010, dopo è stato tutto gestito in una logica che, ripeto, è fortemente negativa. Cosa fa in quel contesto? Spieghi che è la via sbagliata, ma evidentemente sono decisioni che prendono i grandi e i forti e cerchi di adattarti. Se lei vuole dire che la colpa della Grecia è mia, no, ma figuriamoci. A settembre il presidente Monti disse che il caso della Grecia, il professor Monti, era un caso di successo dell'euro, perché avrebbe imposto la disciplina a quel sfortunato paese. Quindi sa, finché si ragiona in quel modo non si fa molta strada, credo. Il problema della Grecia è che può costituire un problema di chi ripaga quel debito. Poi è un problema di che cosa succede dopo, quali effetti emulativi in altri paesi, e poi, mistero, quanti derivati sono sopra la Grecia, quante operazioni difficili da calcolare e aggiungo anche da smontare eventualmente. L'esempio che viene fatto è un po' quello della Lehman. Ora è difficile avere un'idea di cosa c'è sopra. Quando la cancelliera tedesca alla fine dice, e altri autorevolmente dicono, ma non i ministri, molti ministri dicono deve uscire tout court, dicono avrebbe conseguenze incalcolabili, credo che nel calcolo vadano messe le conseguenze emulative di irradiazione di quel precedente in altri paesi e conseguenze finanziarie tout court, cioè a dire cosa succede sui derivati che magari ci sono sulla Grecia. Le chiedo di rispondere secco alla domanda che le ho fatto prima. Secondo lei alla fine uscirà la Grecia dall'euro oppure no? A guardare la situazione politica greca e a guardare la situazione europea al momento. Guardi, io non posso, non sono di quelli che fanno previsioni. Io vorrei che non uscisse. Per prudenza, per ragione, per ragioni economiche e anche politiche. Le chiedo di venire all'Italia. Lei è stato molto critico nelle sue ultime uscite nei confronti dell'attuale esecutivo. Immagino che, visto che le ultime critiche le abbiamo sentite non più tardi un paio di settimane fa, il giudizio permanga. Guardi, io penso che tu puoi fare un misto tra tasse e tagli, ed era il suggerimento che ho fatto ed era il testo che c'era in Parlamento, approvato dal Consiglio europeo, avendo noi 600 agevolazioni, una tosatura delle agevolazioni fiscali da una parte e una rimodulazione degli assegni sociali, che sono poco per chi ha poco e magari eccedentari per chi sta comunque abbastanza bene, con una manovra mista io credo avrebbero fatto la cosa giusta. In realtà ho visto una sequenza di tasse concentrate soprattutto in un settore chiave per l'economia. Poi ho visto la simmetria tra le tasse e le tariffe, cioè dire è stata tolta, faccio un esempio, l'inflazione dalle pensioni, ma messa sui pedaggi autostradali e tutte le bollette. Poi anche un pezzo di spesa pubblica, più o meno 1 miliardo al mese. E adesso i tagli, ecco. Io credo che puoi fare un misto, puoi fare i tagli, puoi fare le tasse, trovo non adatto a un'economia come la nostra fare prima le tasse, poi le tariffe, poi un pezzetto di spesa e fatto tutto quello fare anche su un sistema colpito i tagli. Aggiungo e finisco, quello che mi sembra non positivo è non solo il carico economico di queste manovre, ma anche il carico psicologico, che forse è ancora peggio di quello economico, come incidenza sull'economia, sul clima complessivo. Ci spiega una cosa, ma perché i tagli alle tasse e alla spesa non li avete fatti voi quando eravate al governo? Ma vedo che lei sta facendo domande militanti, glielo spiego. No, guardi, non è nessuna domanda militante, ci arrivano tra l'altro molte domande dagli ascoltatori. Vede, in questo senso, e sento anche il dovere di riferirle. Vede, non c'è nessuna militanza, guardi. Senta, io ricordo bene il programma di governo, che era, vede, sul programma del centro-sinistra la parola chiave era la parola miracolo, la parola crisi era abbinata solo all'Afghanistan, mi pare. Il programma era una crisi che arriva e si aggrava, e tutto subordinato alla tenuta complessiva dei conti e dell'economia in base alla crisi che veniva e si aggravava. Io ricordo che nel luglio del 2008 fu fatta anticipata la finanziaria triennale, in modo da evitare all'Italia di trovarsi nella tempesta della Lehman, allora non si sapeva che sarebbe stata la Lehman, di trovarsi nella tempesta col bilancio aperto. Io per 3 anni credo, adesso credo si può dire, una tenuta complessiva. Gli spread per 3 anni sono stati sui 113 punti. Il deficit scendeva più che negli altri paesi, il debito saliva molto meno che negli altri paesi, si stava costruendo il pareggio e l'avanzo primario, il prodotto interno lordo, la crescita, l'ultimo dato certo è il 2010, l'Italia nel 2010 è cresciuta più della Francia e più dell'Olanda, quindi nell'insieme un paese che teneva la coesione sociale, non c'è mai stato uno sciopero generale, tutti i soldi sono stati messi sugli ammortizzatori sociali, la cassa depositi e prestiti è stata trasformata di fatto nella terza banca italiana, la moratoria al sistema bancario, non voglio dirle che andavano in orario anche i treni, ma nell'insieme è stato un triennio, come dire… Quando c'era lui… No, se perdoni la battuta, insomma, ci voleva, no? Siccome ne ho fatta io una su di lei, è sì. Questa che dice, no, nell'insieme e poi si vedrà. Poi si dissociano le politiche economiche, quella che vedevo giusta io era la prudenza e non il coraggio, e invece altri dicevano ci vuole coraggio, bisogna… Tenga conto che le tasse non sono salite, sono rimaste abbastanza ferme. Adesso leggo, forse anche su Sole 24 Ore, che gli acquisti intermedi hanno funzionato come riduzione, per la verità non in questo governo o nell'altro. Insomma, io ho l'impressione che nell'insieme la verità è questa. Tra giugno-luglio si manifesta sullo scenario la crisi e la guerra dei debiti pubblici. L'Italia non ha mai avuto problemi sul debito pubblico perché era in splendido isolamento. Poi tutto si accumula, la crisi fa crescere tutti i debiti pubblici e ognuno cerca di piazzare al meglio i suoi. E se c'ha gli strumenti di pressione, di informazione, di potenza economica e finanziaria, sei avvantaggiato rispetto agli altri. Io pensavo che fosse ragionevole entrare nella crisi drammatica che si stava aprendo, in Europa tra l'altro, con una linea di prudenza. Altri nel governo, e più autorevoli di me, avevano una linea diversa. A un certo punto è stato chiesto l'intervento della Banca d'Italia BCE, la famosa lettera, le posso assicurare che io non l'ho chiesta. Ministro, ma perché non si è dimesso, cioè, ex ministro ormai, insomma, professor Tremonti, perché non si è dimesso a quel punto? Perché stavo facendo, se lei dice per attaccamento alla poltrona, le posso assicurare. No, assolutamente, assolutamente, no, le chiedo perché ero non si è dimesso. E sono convinto di avere fatto comunque il mio dovere, tenga conto che pur a valle di quella lettera non chiesta e a mio parere sbagliata, tuttavia ho fatto la bozza di un decreto legge che il Financial Times definì perfetto in agosto e invece si disse il Parlamento lo migliora e poi siamo andati verso una crisi. Le faccio notare comunque che gli spread che ci sono adesso erano, come dire, allora considerati tragici, adesso mi sembra che vengano considerati normali, no? Beh, tanto normali mica tanto, insomma, siamo sui 435 punti adesso, insomma, un filo di preoccupazione resta naturalmente. Io ho detto sembrano. Non vengono considerati. No, io credo proprio che in una situazione seria si debba essere anche seri nelle analisi. Non voglio fare una discussione su cosa poteva essere un governo che aveva oggettivamente dei problemi non solo diciamo numerici ma politici, di tenuta, alla fine insomma, però torno a dire, fu molto radicalizzato tutto e adesso vediamo che forse era più giusto vedere come causa della crisi l'assetto complessivo dell'Europa, cioè dire la isteresi del sistema bancario che ha portato all'intervento, alla iniezione di liquidità. Guardi che anche con il governo Monti gli spread sono stati sopra i 500 a lungo, sono scesi con l'iniezione di liquidità, che è una soluzione temporanea, adesso stanno di nuovo salendo. Io credo davvero che fuori dalle polemiche, dalle storie italiane, il grande problema sia, come ho cercato di dire tante volte, sia europeo. Chiarissimo, la ringraziamo, grazie al professor Tremonti per essere stato con noi, ex ministro dell'economia, come avete sentito è un'opinione, vedo tanti messaggi, alcuni molti negativi, devo dire la verità, alcuni positivi per questa intervista, è un'opinione che come avete sentito abbiamo ospitato, grazie e buonasera e buon lavoro. Come per... siete stati buoni, grazie mille. Salve, salve, buonasera. Tra un attimo parleremo della borsa, la giornata è stata con continui cambi di direzione, il FTSE MIB in calo dello 0,21% in chiusura, il FTSE All Share dello 0,38%, in maniera diversa sono andate le piazze finanziarie del resto d'Europa, perché Parigi ha guadagnato lo 0,31%, Francoforte è scesa dello 0,26%, comunque le borse hanno cambiato direzione spessissimo nel corso di questa giornata. Ci arriveremo tra un attimo, però insomma anche poco fa Tremonti accennava al tema delle pensioni, quindi prima di parlare di mercati è di pensioni che parliamo. Ne parliamo con un collega del Sole 24 Ore, Jean-Marie Delbo. Buonasera Jean-Marie. Buonasera a voi. E ne parliamo perché domani parte un'iniziativa molto particolare, a dire il vero, del Sole. Ci spieghi in cosa consiste? Domani abbiamo la prima puntata di una nuova iniziativa che si chiama Sportello, nel caso specifico lo sportello sarà dedicato alla previdenza e in questo caso si tratta di mettere l'attenzione sulla riforma delle pensioni che è stata varata di recente, che è ancora in fase di attuazione, offrendo la possibilità ai lettori di far valere le loro indicazioni, le loro sollecitazioni, con un interlocutore molto particolare perché alcune di queste sollecitazioni hanno avuto la risposta diretta del ministro Elsa Fornero. Benissimo, e per inviare queste domande, poi anche per immagino le puntate successive dello sportello, come si fa? Viene creata una casella di posta elettronica, in questo caso era sportellopensioni@ilsole24ore.com. E quindi domani avremo anche le risposte della Fornero su questi temi. Avremo anche le risposte del ministro, sì. Grazie, grazie a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore. Quindi domani lo sportello del Sole 24 Ore sulle pensioni, come si calcolano, quanto rendono, come cambierà la nostra pensione e appunto ci sono anche le risposte del ministro. Adesso però andiamo sui mercati. Eleonora Micheli, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. È stata una giornata di estrema volatilità, direi. Assolutamente sì, perché anche per quanto riguarda la sola piazza affari, l'indice ha cambiato più volte direzione, un'ora fa guadagnava oltre l'1%, poi ha chiuso in calo dello 0,2%, era partito invece in calo abbastanza evidente, anche poi la chiusura delle altre borse europee dimostra che non c'è un trend, Parigi è salita ad esempio dello 0,3%, Francoforte è andata giù dello 0,26%, di sicuro c'è molta incertezza soprattutto su quello che è il futuro dell'Europa e conseguentemente anche sulla strategia da intraprendere in borsa. Allora, veniamo ai singoli titoli, perché appunto l'andamento generale del mercato abbiamo capito che è molto legato alle vicende politiche ed europee, ormai lo sappiamo. E partirei dal titolo migliore di giornata, che è Finmeccanica, un guadagno del di oltre il 4,5%. Esatto, Finmeccanica oggi era sotto i riflettori visto che si è tenuta l'assemblea dei soci, un'assemblea ovviamente che era nell'interesse del mercato visto le ultime vicende abbastanza contorte che hanno riguardato la società, ma al di là di questo a sostenere diciamo gli ordini in acquisto nei confronti di Finmeccanica è stata soprattutto l'indiscrezione riferita quest'oggi proprio dal Sole 24 Ore, in base alla quale la francese Tails starebbe studiando l'ingresso nell'azionariato del gruppo con una quota attorno al 10%. Bene, la Popolare di Milano un 4,3%, brevemente qua un trimestre superiore alle attese anche in questo caso, Eleonora, no? Esatto, ormai la stagione delle trimestrali sta entrando nel vivo, tutte le società quotate stanno appunto pubblicando i propri conti e quindi c'è chi va bene, c'è chi va male. La Popolare di Milano ha pubblicato conti che sono risultati superiori alle attese del mercato e si è visto anche con la reazione di borsa. Certo. Stessa cosa si può dire ad esempio anche per Intesa San Paolo, che peraltro durante della seduta saliva con maggiore convinzione, ha chiuso comunque in progresso del 2%, l'istituto ha registrato 804 milioni di utile nei primi tre mesi dell'anno, più 21,6%, ma soprattutto un risultato superiore alle attese. Invece non è andata così per il Monte dei Paschi, meno 3,9%, ieri anche la Banca Senese ha pubblicato i conti che non sono piaciuti, il titolo aveva perso ieri il 7%, oggi quest'altro 3,9, nonostante le rassicurazioni dell'amministratore delegato Viola, che ha detto che presenterà il nuovo piano industriale entro metà giugno e che le indagini della procura che avevano fatto scivolare il titolo la scorsa settimana non impatteranno sul patrimonio. Sì, il titolo peggiore in realtà tra i 40 del FTSE MIB A2A, un calo del 4,46%, motivi particolari? Ma anche in questo caso no, non ci sono stati motivi particolari, se non il fatto che sono scattate anche una serie di realizzi la scorsa settimana, il titolo invece era andato molto bene. Ok, giù Campari del 2,85%, ieri era andata bene, Azimut in calo del 2,30%, Atlantia del 2,12%, Enel Green Power del 2,08%. Per quanto riguarda Fiat abbiamo Industrial che è scesa dell'1,97%, mentre invece è positiva Fiat S.P.A., insomma la parte automotive vera e propria, più 1,12%. Esatto, è positiva e nonostante peraltro i dati sulle immatricolazioni europee non siano stati affatto buoni, infatti ad aprile per l'ennesimo mese Fiat è andata peggio del mercato, se in Europa le immatricolazioni hanno registrato una contrazione del 6,5%, il lingotto ha registrato un calo dell'11,3%, ma questo probabilmente il mercato l'aveva già messo in conto e quindi oggi i titoli hanno recuperato l'1,12%, stanno però a un livello molto basso, 3,41 euro. Bene, ci chiedete cosa ha fatto Mediaset, un guadagno dello 0,42%, ci chiedete giustamente perché le cose sono andate maluccio nei giorni scorsi, insomma maluccio a dir poco, un guadagno dell'1% per Telecom Italia, oggi tra l'altro annuncio ufficiale che verrà venduta Telecom Italia Media. Allora, io saluto intanto Eleonora Micheli di Radio Corso Il Sole 24 Ore, grazie per essere stata con noi e chiedo pardon, Telecom Italia ho fatto un errore, anche qua è stata una giornata molto confusa dal punto di vista della borsa, alla fine Telecom Italia in realtà ha chiuso in calo dello 0,26%, grazie Eleonora Micheli di Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E poi vi daremo il quadro degli altri titoli, noi adesso però ci occupiamo di auto, visto che si parlava prima dei dati sulle immatricolazioni. Dal 15 al 17 maggio ci sono gli stati generali della distribuzione automobilistica, vuol dire i concessionari per dirla brutalmente, a Verona per la 10ª edizione di Automotive Dealer Day, il principale appuntamento europeo dedicato al settore, attesi più di 4.000 operatori. Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l'associazione che li rappresenta in Italia. Buonasera Bernacchi. Buonasera a tutti. Allora, al di là dei dati che abbiamo visto, che sono ancora una volta negativi, c'è un problema che vi riguarda specificatamente, perché se le case automobilistiche hanno possibilità, quando sono in grado, di rifarsi con le immatricolazioni nei paesi in via di sviluppo, chiamiamoli così, anche se ormai non lo sono più, come per esempio è per la Fiat il Brasile, per voi che siete solamente i concessionari, quando il mercato va male... va male, non ci sono storie. È così, infatti il dato europeo di contrazione di aprile è meno 6%, noi abbiamo chiuso praticamente con un 20% in meno da gennaio ad aprile, quindi vuol dire che stiamo soffrendo più di 3 volte rispetto all'Europa. Ci confrontiamo solo con il mercato domestico, ci è preclusa la possibilità di marginare in giro per il mondo, abbiamo appunto delle peculiarità uniche rispetto ai costruttori, abbiamo delle esigenze diverse a cui qui da Verona cerchiamo di dare delle risposte. Voi dite tra l'altro che è a rischio la sopravvivenza del 30% delle concessionarie, ma entro l'anno? Ma i dati sono stati presentati dagli analisti del settore, da Quintegia, da una parte dell'Università di Venezia e quant'altro. Noi temiamo appunto che possa sparire il 30% dei concessionari, stante così le cose, anche entro fine anno, perché la situazione è insostenibile, c'è stato un crollo verticale della domanda e nessuno può resistere a questo tsunami che è arrivato su questo settore. Giusto per darvi una misura, parliamo del 30% delle concessionarie, parliamo di un settore che impiega 178.000 persone, quindi stiamo parlando di lavoratori, insomma, quando si parla di chiusura dei concessionari non si tratta solamente appunto banalmente della concessionaria che chiude. Ma guardi, ecco, lei ha citato delle cifre giustissime, solo che il settore fattura l'11,6% del PIL e impieghiamo 1.200.000 persone, quindi fonte Sole 24 Ore, sono a rischio più di 200.000 posti di lavoro, quindi è una cosa da prendere con molta serietà. Con molta serietà. Brevissimamente abbiamo un minuto, voi chiedete un aiuto alle case automobilistiche, in che modo, come? Noi abbiamo chiesto da una parte, incontreremo il governo venerdì prossimo con delle proposte concrete, dall'altra chiediamo ai costruttori che appunto possono marginare nel resto del mondo di rivedere le regole della distribuzione, perché erano regole che erano state varate quando i mercati erano in espansione o comunque i mercati erano allegri. Adesso sono cambiate le condizioni e quindi le regole vanno riviste radicalmente. Grazie a Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto. Lo ricordiamo, dal 15 al 17 maggio ci sono gli stati generali della distribuzione automobilistica a Verona, la 10ª edizione di Automotive Dealer Day. Prima di andare all'incontro, alla conferenza stampa del Fondo Monetario Internazionale con il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Ministro dell'Economia, Mario Monti, non vi abbiamo dato il quadro finale per quanto riguarda tutti i principali titoli del listino milanese. Listino milanese che ha chiuso in calo dello 0,21% sul FTSE MIB e dello 0,38% sul FTSE All Share, dopo una giornata molto nervosa, come si usa dire. Si diceva, titolo migliore Finmeccanica in rialzo del 4,5%, la Popolare di Milano su del 4,3%, la Popolare Emilia Romagna del 2,4%, Intesa San Paolo del 2%, Beneterna più 1,48% e Buzzi Unicem più 1,38%, Fiat su dell'1,12%, ST Microelectronics di 1 punto percentuale, di mezzo punto Unicredit e Tenaris dello 0,4%, Mediaset di Assorin dello 0,27%, e dello 0,26 Mediobanca e dello 0,25 Exor, Lottomatica in guadagno dello 0,07%, di poco più dello 0,1% in calo Saipem, Impregilo, Autogrill e Banco Popolare, dello 0,25 o poco più Enel, Telecom Italia e Luxottica, dello 0,4 in calo Eni, Prismian mezzo punto percentuale di calo, meno 0,66% per Snam, Mediolanum e Pirelli giù dello 0,9% circa, di poco più di un punto percentuale Parmalat e Ferragamo, di un punto e mezzo circa Generali, Ansaldo, Ubibanca e Tods, di due punti Fiat Industrial, Enel Green Power di due punti percentuali altrettanto, Atlantia del 2,12, Azimut del 2,30, giù anche Campari al 2,85%, il Monte dei Paschi il 3,91, A2A del 4,46%, con l'euro che quota 1,27,31 contro dollaro. E parliamo adesso appunto del Fondo Monetario Internazionale. Ah sì, giustamente ci fate notare come stanno andando gli Stati Uniti. Il Dow Jones guadagna lo 0,31%, il Nasdaq lo 0,17%. È terminata oggi la missione annuale in Italia del Fondo Monetario per valutare lo stato dell'economia e delle banche. Dopo due settimane di incontri che hanno visto gli esperti del fondo impegnati tra Milano e Roma, la squadra ha presentato i risultati della missione nel corso appunto di una conferenza stampa. L'Italia a buon punto ha fatto notevoli progressi negli ultimi sei mesi, ha detto Reza Moghadan del Fondo Monetario. Sentiamo le sue parole. Italy is on the right track and Italy has made remarkable progress. L'Italia è sulla strada giusta, ha fatto progressi notevoli negli ultimi sei mesi. Il primo ministro Monti ci ha ricordato che oggi sono esattamente sei mesi dalla nascita di questo governo. E ci sono stati progressi significativi su risanamento e riforme. Non è facile ricordare che l'Italia ha dovuto affrontare una situazione molto difficile e pericolosa alla fine dell'anno scorso. Le misure messe in campo da questo governo hanno dato un notevole grado di stabilità rispetto alla situazione di fine 2011. Penso che le misure di risanamento e riforme messe in campo dall'Italia negli ultimi sei mesi siano un modello da seguire in Europa. Le politiche di stabilizzazione messe a punto dal governo sono la condizione per rilanciare la crescita, dice il fondo. Si riconosce appunto all'Italia l'importanza delle misure, il lavoro è solo iniziato, molto resta da fare. Con le riforme è possibile un 6% di prodotto interno lordo in più. On structural reform, we believe there is considerable scope to... Riguardo le riforme strutturali, pensiamo ci sia ancora notevole spazio per aumentarle, in modo da aiutare l'economia italiana a crescere con più forza. Le analisi compiute dalla nostra squadra hanno evidenziato che il livello di prodotto interno lordo potrebbe essere il 6% in più con maggiori riforme. E questo è il grande risultato derivante dal processo di riforme strutturali. La cosa positiva è che la maggior parte di queste riforme verranno presto attuate. Prima tra tutte quella del mercato del lavoro, una riforma molto importante. La nostra raccomandazione è di agire velocemente e approvarla al più presto. Aiuterà a creare posti di lavoro e prima sarà attuata, più rapida sarà la ripresa. Dice tra l'altro sul lavoro il Fondo Monetario: l'Italia deve aumentare la partecipazione di donne giovani, che è più bassa di altri paesi, e vabbè, lo sapevamo. Le stime per l'Italia non cambiano, PIL in calo dell'1,9% per il 2012. Interessante il tema delle tasse, il taglio delle tasse ridurrà l'evasione, dice il Fondo Monetario, lo dice Azim Hussein, vice direttore del Dipartimento Europeo. C'è bisogno di un riequilibrio, aggiunge. E ancora, le prospettive per l'economia italiana sono a ribasso e poi il fondo si occupa anche delle banche. Il sistema bancario italiano continua a beneficiare di molte caratteristiche positive, ma presenta anche alcuni punti critici. Dunque, sentiamo il Presidente del Consiglio, Mario Monti, su allentare la presa o meno. La missione di queste due settimane che si inserisce nell'attività regolare e non straordinaria del fondo, mostra che l'Italia ha fatto ciò che doveva fare per mettere i conti pubblici su basi sicure e avviare riforme strutturali incisive. Il fondo è anche molto franco nel dire che ci sono due condizioni perché l'Italia possa trarre benefici dall'azione di questi sei mesi e tornare a crescere. L'impegno per la gestione rigorosa delle finanze pubbliche e le riforme strutturali non devono essere allentati. Le debolezze da rimediare sono molteplici e i benefici che possiamo ancora ottenere in termini di crescita futura sono molto ampi, come segnala il Fondo. Non è il momento di allentare la presa. Il Fondo ci incoraggia in particolare ad approvare rapidamente la riforma del mercato del lavoro e la riforma del sistema di tassazione e rivedere la spesa pubblica mediante la spending review. Così Monti, che tocca anche il tema della Grecia, oltre a dire che a ribadire che non servono nuove manovre, a dire che non ha mai usato la parola austerità, parla anche di Grecia, delle preoccupazioni americane. Non posso dare dettagli di una telefonata, ma è pubblicamente noto che la preoccupazione americana per la situazione economica della Unione Europea e dell'Eurozona è notevole e è ovviamente accresciuta, come lo è per tutti noi, dal conturbarsi della situazione greca, e questi temi europei saranno, credo e ho ragione di ritenere, tra quelli più trattati nel G8 di Camp David. E certo che prima o poi qualcuno dovrà parlare più diffusamente del vocabolario utilizzato dal Presidente del Consiglio, perché insomma si sorrideva qua con Moria Longo in studio con noi. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. Per questa espressione, il conturbarsi della situazione greca, la faccia del conturbarsi, c'è già un termine che gira ormai da qualche tempo, in realtà da qualche mese, sui mercati, questo Grexit, che vuol dire l'uscita della Grecia dall'euro, Greek exit o Greece exit, come preferite naturalmente. Se è preferibile che non esca, evidentemente, anche se non tutti concordano da questo lato. Allora, secondo alcune simulazioni, l'uscita di Atene dall'euro potrebbe comportare inizialmente una galoppata dell'inflazione fino al 40-50%, una discesa del PIL del 20%, una crescita del debito fino al 200%. Questa è l'ultima di BNP Paribas, se non sbaglio. Allora, Moria Longo, quello che vorrei iniziare a capire con te è se i mercati hanno già scontato, stanno già scontando un'ipotesi di questo genere. I mercati lo scontano, lo danno questa probabilità, tutti i report delle banche d'affari danno la probabilità dell'uscita della Grecia dall'euro dal 70-75%, come Citigroup, più o meno percentuali più o meno analoghe per altre banche d'affari. Se si va a vedere nei prezzi, nei rendimenti, per esempio i titoli di Stato, si scopre che in realtà il livello di stress raggiunto oggi dai titoli di Stato, non della Grecia, che ormai sono fuori dal mondo, fuori. Anche per quelli sono stati ristrutturati, per cui ormai però dico i titoli di Stato, per esempio italiani e spagnoli, sono, per esempio, hanno rendimenti più bassi rispetto a quelli che abbiamo toccato a novembre scorso. Quindi i rendimenti dei titoli di Stato, i mercati obbligazionari attualmente parrebbero non scontare pienamente, anzi non scontare in gran parte l'eventualità di un'uscita della Grecia dall'euro. Il motivo è probabilmente questo: che i mercati sono convinti che da un lato la Grecia sia ormai verso la strada dell'uscita, dall'altro sono anche convinti che prima o poi la Banca Centrale Europea faccia qualcosa, visto che a novembre, quando la crisi... E cosa? Qua si ipotizzano varie cose. Oggi tra l'altro i membri del direttivo della Banca Centrale Europea sono riuniti, oggi c'è questa una delle riunioni standard della Banca Centrale Europea, sicuramente parleranno della situazione greca. Il mercato scommette o che faccia una nuova operazione di finanziamento a lungo termine alle banche, come quella che ha fatto a fine dicembre e a fine febbraio, quindi liquidità abbondante e illimitata a tutte le banche che ne fanno richiesta per comprare titoli di Stato, per finanziare l'economia o comunque per evitare la crisi di liquidità delle banche, oppure la fantasia degli operatori è infinita, c'è chi inizia a ipotizzare acquisti massicci della Banca Centrale Europea, già si diceva che oggi qualcosina possa avere comprato anche se non c'è nessuna certezza, oppure altre politiche come il quantitative easing, cosa che però in Europa è assolutamente tabù. Va detto che per ora non c'è niente di ufficiale che lasci intendere una strada di questo tipo, ma il mercato ne è convinto, perché già si è visto a novembre, quando i titoli di Stato italiani e spagnoli hanno raggiunto il 7%, quindi un livello ritenuto critico, la Banca Centrale è intervenuta. Si suppone che anche adesso, questa è, ripeto, una pura supposizione del mercato, che anche adesso se qualcosa succedesse e i titoli di Stato d'Italia, Spagna e di altri paesi arrivassero vicino a quella soglia, la Banca Centrale qualche cosa torni a farla. È per questo che probabilmente i rendimenti stanno sì salendo, ma non così tanto come la situazione di stress lascerebbe intendere, perché oggi si parla effettivamente, c'è un rischio concretissimo che la Grecia esca dall'euro e che apra il vaso di Pandora di uscita dei paesi dall'euro. Certo, allora i dati li abbiamo forniti, no? L'ultima valutazione, si diceva, quella di BNP Paribas, se non sbaglio, prevede, li ripetiamo proprio per dare la dimensione della cosa e anche perché c'è qualche voce che inizia a dire ma insomma tutto sommato è meglio che anche l'Italia esca dall'euro. Questo per darvi la misura di che cosa ci aspetterebbe, è chiaro, pur non essendo la Grecia, inflazione fino al 40-50%, discesa del PIL del 20%, crescita del debito pubblico fino al 200%. Questo più o meno lo scenario di uscita della Grecia dall'euro. Ora Moria, fin qui quello che può succedere al singolo paese, molto più difficile da valutare e sono gli effetti successivi, tanto l'effetto cosiddetto contagio, o meglio il cosiddetto effetto contagio, che passa anche attraverso insomma quanta Grecia c'è nei bilanci delle banche europee. Sì, io credo che il problema principale sia la questione della fiducia, come quando fallì Lehman Brothers e poi a cascata stavano per fallire tutte le altre banche, tant'è vero che i governi sono dovuti intervenire per salvarle sia in America sia in Europa. Adesso la situazione potrebbe essere la stessa, dal momento in cui, allora, il punto secondo me focale è questo: noi siamo cresciuti nella convinzione che il biglietto per l'euro fosse di solo andata, cioè si poteva solo entrare e nessuno ne poteva uscire. E così è sempre stato, non esiste una procedura per uscire dall'euro. Allora, se un giorno emergesse il fatto che una procedura esiste, che viene inventata, e un paese, appunto la Grecia, ne uscisse, a quel punto il mercato, gli investitori lecitamente potrebbero pensare che una volta aperta la porta chiunque possa appunto varcarla. Allora a questo punto gli investitori potrebbero, e in parte lo stanno già facendo, fare un ragionamento sui titoli denominati in euro, sui debiti denominati in euro, ma anche sui depositi denominati in euro, fare una valutazione di tipo valutario. Allora, un deposito in una banca italiana in euro, a quel punto, o spagnola, quindi in un paese diciamo chiacchierato comunque con delle debolezze, non vale più come un deposito in una banca tedesca, perché nell'ipotesi, giusto o sbagliata che sia, di distruzione dell'euro, uno diventa in marco, l'altro diventa in lira e pesetas. Allora, un titolo di Stato italiano, spagnolo o tedesco non sono più la stessa cosa, perché non lo sono già adesso, ma non lo sarebbero più neanche in termini valutari, perché un titolo tedesco verrebbe eventualmente rimborsato in marchi, un titolo italiano in lira e un titolo spagnolo in pesetas. Allora a questo punto gli investitori dirigono, cioè, quello che dici è che gli investitori inizierebbero a scontare questo rischio anche se fosse lontano dal verificarsi. Certo, perché il rischio ci sarebbe dal momento in cui si apre una porta. Non è detto che gli altri stati la varchino, però c'è la possibilità. Allora un investitore, se può scegliere, giustamente comunque dal suo punto di vista, sceglierebbe le valute, diciamo i paesi ritenuti più solidi anche dal punto di vista valutario. Il timore vero è che se la Grecia esce dall'euro possa partire una fuga di depositi, di capitali, dei paesi ritenuti più deboli, non perché siano effettivamente deboli, hanno varie debolezze, hanno fatto anche tante cose importanti, tanti passi in avanti, ma semplicemente perché viene meno la fiducia. A quel punto si iniziano, l'euro tedesco non vale più come l'euro italiano, spagnolo. Questo è il rischio. Allora è il rischio che si perda la fiducia, che ci sia una fuga di capitali, che vada poi a forzare talmente tanto la mano che poi effettivamente si creino le condizioni affinché un paese esca veramente dall'euro. Grazie Moria Longo, e vi ricordo che domani sul Sole c'è il decalogo per le famiglie, 10 consigli per sopravvivere alla crisi. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in redazione, Pietro La Corte in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, buonasera. Radio 24. La passione si sente.